grasso e lo avvolgiamo bene con l'acido vulcanizzante dopo, in modo che non si ossidi e che rimanga il più efficiente possibile. Anche su quella piazza che c'è sotto, che tende a marcirsi, dove attacchi il PL, quella lì lo stesso gliela spruzziamo tutta quanta con quel grasso lì, con quel grasso spray. E possibilmente cerchiamo di proteggerla in un modo meglio possibile. Poi per i radiali, se sono curti, tanto io qui ho la misura dei radiali della Mantova, al limite compriamo di quei cosi in alluminio e li facciamo più lunghi. Ma se li faccio lunghi io mi sollevare la bombina, perché ti cambia tutto, tutta la cosa, Mario. Non è, uno sono più 700 litri, ma sono 10. L'avevo fatto io una volta. Quando ci ho messo a vedere le gambe, ho dovuto sollevare la bombina, appunto perché il grado di radiazione è molto maggiore, non è 2,5 ricatto, ma sono 2,5 di proprio di lunghezza, capito? Bisogna sollevare 2 centimetri la bombina, cambierebbe tutto, Mario. Allora, quando dopo Pasqua vediamo quello che c'è, controlliamo bene quello che c'è da fare, non voglio fare modifiche, se no cambierebbe tutto. Allora c'era combinata così, la Mantova al limite si pulisce bene per quello che dobbiamo fare, qualcosa dobbiamo proteggerla per fare molti anni fuori all'intemperie, però non possiamo toccare nient'altro. La paratura è quella e non la muovo io. Dimmi. Non preoccupare che se vado io mi serve da vettura, mi porto la pure e me la porto sopra. È ancora meglio di essere normale senza bere niente, sta tranquillo. L'altro che l'ha fatto. Parlando in 40 anni vicinate. Dai, stazione del Moro, ricordate il Moro, direzione Zonzo, vita mia, Minuccia, mi ha sentito, saluzioni. Si c'è Vulcano, E infatti anche a me in Maria. Vedi di Vulcano. Minuccia del Moro, Luca, mannaia l'ostia. Ma va, cocca di qualche guai, non impari a conoscere le popolazioni. Allora, sono un malacchino. Grazie, Gigi Vulcano, Luce, non intende Augusto. Ciao, Ostia. Il marchio siciliano dei barracchini si sente. Ma dimmi una cosa, Luce. Ma c'è sempre la Friction lì a casa, sì. No? La tua stazione a casa, l'antenna sul tetto. Caparoggero, dai, stasera abbiamo preso qualche, una signorina, vedete, ce la facciamo andare a farmi un po' di propagazione anche qua. Va bene, fa che? Gigi Vulcano, No, la chiama mi ha fottuto, mi pare a Gigi, comunque mi hai sentito, Pinuccia, dove ti trovi, in che zona sei? Giovanni, diciamo, sono fermato a prendermi le sigarette, che le terminate. Sembri saturo come modulazione, non lo so, il segnale è forte, però la modulazione è mezzo satura. Vediamo un pochettino, Domenico, dove è arrivato? Avanti, Domenico. Sta a casa da Domenico, che l'ha ascoltato, comunque. Vai, Marieri. E io a Croce non lo sento più, a Domenico non lo sento più, ma è vero. Niente, buonasera Pinochet, mi hai sentito? Facciamo ripigliare a quello squinternato di Falchetto. Ciao Pinochetto, mi hai sentito? Dai. Ho confuso la popolazione, dai. Va bene così, dai. Saluto da parte mia, Pinochet. Sismo, rassegnazione. No, è sceso per pigliarsi le sigarette, perché? Ah, K di Rosso. E allora, niente, riprendi tu Mario a girare, dai. Sì, e cosa faccio girare? È uguale. Va bene, dai. Diamo il microfono a doppio rumo, che lui si sta avvicinando sia la sera. Di mutismo come pochi secondi fa, per andare un po' in ordine, così diamo il tempo di parlare anche a quelli che sono più lontani. Vediamo se Domenico ci ascolta ancora. Adesso Domenico, se mi copri batti un colpo. Santiago, radio quasi 5, dal 4 al 5. Vediamo Falchetto per Domenico, vai, cosa fai girare? Ja, dove, dai, tutto Roger, tutto K da questa parte. Tutto Roger, Domenico. Aspetta, chi è l'altro? Era portante, come? Ma ho sentito uno basso di radio, poco a poco sentivo, però il segnale è forte, no? Ma K, fammi entrare. Se qualcuno vuole uscire avanti, chi vuole entrare su 5? La ripiloghiamo, vabbè, c'è in parcheggio Antonello. Avanti Antonello, che me l'ho dimenticato di salutare poco fa, avanti. Via, Cappano, beh, ti saluti, non c'è problema. Ti vuoi salutare tutti qua, no problem. Bene, poi vediamo un pochettino, Gianni doppio rumo dove è arrivato, Gianni sei già a casa o sei ancora in cosa, in movimento? Ma stanno a fare una commissione, fra poco rientro, stanno a fare una commissioncina e sto cercando parcheggio, che qua è un casino, c'è una trovata. Ma quando sapete il telegiornale, una coincidenza strada nella strada di Ubi, un altro morto. Lo sappiamo, è croce di monti. Con un altro pelo si sbatte. Se c'è dove c'è uscita la cosa, un autobus. forse è uscito l'autobotte. La tipa è morto sul colpo tedesco, un tipo di 71 anni, la tipa che c'era a fianco, la moglie si è salvata. Tu devi vedere dove c'era la caffina l'autobotte, cioè buttata in campagna un fuscello. Io non l'ho preso, ma mi ha fatto uscire il cilindro. Un attimino, dai, che mi sto fermando, mettalo. Andrà bene, vediamo un pochettino, dove entrare Salvatore Maestrale, vediamo se è entrato. Salvatore, se ci sei, batti un colpo. Allora andiamo di nuovo a Domenico, se mi ascolta ancora. Domenico, mi ascolti? Bene, Domenico, Fontanella Ploaghe, Domenico, avanti, chi c'è, la Luca? Ce l'hai sentito? No, non c'è, Mario, l'hai sentito? Mi sono sentito, Mascio Mascio. Dio Dio, è arrivato dietro Ploaghe praticamente, dove c'è la Fontana. Tra poco trovo la prima incrocio per Ardara, cappa, come fa la discesa, e addirittura l'arrivo, cappa, e senti sempre Domenico. Domenico, l'hai sentito a Mario? Stava parlando Domenico, dice, lo sentivo forte e chiasso. A me come mi colpi Domenico? KK, Mario sei numero uno. Ma quale numero uno, che non lo sento, porca la piccola U. Ti sente più forte di tutti i segnali, anche di me. Addirittura, io sono un grido, cioè che spara a me e non riceve niente. Mi sembra strano. Oh, così mi ha detto. Domenico, confermi? Sto sempre in mezzo al QRM, poco a poco. Dov'è? A me mi ascolti? Dammi un controllito. Domenico. Sai che stava parlando? Ma di compreso, cosa ha detto Falca? Non ho capito. Domenico, lo senti a Roberto Quadrato? Dal QRM? Domenico, come mi ascolti? Io ti sento proprio piccolino, piccolino, quasi zero. Ascolta, Roberto, ti ascolta. Senti a tutti bene, anche Antonella addirittura ha sentito, capito? Senti tutti bene, però dice che il più che senti è Mario Marcel. Figurati, poi dice che l'antena è senza massa, forse per il chiamato un super sarebbe arrivato Mario Popolare in trasmissione, te lo dico io. Quindi potete, diciamo, ragionare, l'antena è a posto, non c'è niente. Se non mi ha sentito la web di Popolare, senti Mario, adesso c'ha più radiali. Però c'è una ricezione, il discorso è l'antena non venta nulla, tutto lì. Ce l'ho detto io ieri, Antonio, gli ho detto che la turbo, la trasmissione va bene quanto le altre, ma la ricezione è leggermente inferiore e lui non è convinto ancora. Per cui è così il discorso, lui va con l'altra, riusciva a ricevere meglio, ma il segnale qua è uguale a prima la parte mia, quando usciva bene con la 5 cosa aveva? La 5 c'è la linea di molto più lunga, cazzo, sono quasi 2 metri di radiale, figura di blu, la cosa cambia, non è con l'irradiazione che è diverso, quindi se dove si mette la tubo 2001, 8 radiali di gran play, diventerebbe un sicuro, diventerebbe, ma non puoi farlo perché ti cambierebbe tutto l'angolo, dovresti sollevare la bobina da 7 cm a 10 cm, allora sì, che va bene, come avevo fatto io con la mantova 5, ho tolto i radiali normali, quelli che c'è, che monta li ho messi con i lampi, mi ha voluto sollevare 3 cm, però è un demonio, che aveva coso, Roberto, quello che abitava su a coso, a Monte Bianchino, l'ho fatto con la modifica lì, era un demonio un'antenna, la 5. Vediamo un po' chi è rimasto qua nel canale, vabbè, sentiamo un attimino Domenico se mi ascolta ancora e se riesco a sentirlo. Domenico, mi ascolti? No, non lo sento più, vedo lo smitter che si muove. Domenico, cosa hai detto con Franca e Domenico? No, io non l'ho sentito, provo a rilanciarlo io, lei ha sentito Domenico? Vabbè, ha detto che già ci ascolta tutti bene, ed è tra il primo bivio di Ardara e il secondo bivio di Ardara. Stranamente io l'ascoltavo pure più avanti, adesso proprio zero, proprio in mezzo al cuore, ma non capisco quello che sta dicendo. Stranamente o c'è qualcosa a lui, o come ho detto ieri, le condizioni atmosferiche che magari ti fanno prendere un po' il segnale, perché lo sentivo più avanti, l'ascoltavo abbastanza bene, non dico bene, ma abbastanza, adesso proprio quasi zero. Niente, va bene, facciamo girare, vediamo Luca, se c'è ancora avanti Luca. Ci sono, sto giocando a volcare. Vabbè, che dirvi? Fame, un bel infame. Faccio fuori dal campo, faccio questo guardato in casa, buh. Come se viene da che cosa di influenza, strano. Perché ha preso freddo ieri sera, speriamo di notte. C'è freddo, poi io sono uscito con una commissione, sono andato lì a Sant'Orsola, in moto, mi ero un po' in carenne, vabbè. Anche se c'era il sole, non si è fredda. Vabbè. Troppo sul periodo. Poi stai tranquillo che arriva di moto il caldo, poi un casino. No, non faceva danno. Comunque domenica piove, se vi interessa a me, se vi volete andare da altre parti, domenica piove, lunedì c'è freddo, però non piove, è una bella giornata. Mi domani devo andare a vedermi il Milan, salire di Milan, vado a vedermi. Anche chi mi deve da fare, perché c'è un po' di freddolino. Che è di vicenda? Ehi, apporta mia figlia, dovrebbe venire il Salvatore, non so se abbia buscato le rifatte, si aspettano la risposta. Ci ha buscato i biglietti, non scende neanche lui. Sembra così, ma non ho preso più i miei biglietti. La città la roba per entrare, 30. Il minimo è 20, anche 21, perché ha aumentato di un euro. Si parlava a 20, ha messo 21 per il Milan. Dopo l'ho preso io 30 euro, 31 ridotti e 40 euro, 41 euro intero, indistinti, in tribuna centrale. Poi se te ne vai in quella coperta paghi 81 euro. Ma le porti solo una di figlia? E se me l'hai curata così non vuoi due la partita, no, devo prendere la partita, no, non è tipo la portare la piccola. La grande già gli piace, già riesce a seguirla, con quella piccolina la metterà per sua resa. Ehi, vabbè, vabbè. Aspetta un attimo, no? Ripetete il due, arrivo subito. Andiamo, comunque stavo facendo delle prove, Antonio, tu cosa stai facendo col K? Per dire, allora tu stai uscendo un segnale quasi 9.50, sei da me, mi sono spostato dal 5 al 6, assolutamente non ti sento nel 6 e nel 4, idem per Luca e idem per Mario. Ci sono altre persone che escono con meno potenza, con segnali molto più bassi dei vostri e mi girano 3 canali, 4 canali di sblatter. Sì. Io sono. No, io non mi ho voluto mai, non mi ha fatto nulla, però sto dicendo, considerando che stanno uscendo con potenze più elevate queste persone che ho nominato io, Luca, Mario e Coso, come si chiama, che sono segnali molto forti, però sblatter non ne sento. Con altre persone che hanno segnali più bassi sento 2-3 canali di sblatter. Non vai. Per parlare dal discorso che sono apparati più sofisticati, quelli che stanno usando Luca, Mario e Antonello, sono molto più ristretti come emissione, la larghezza di emissione di banda è molto più ristretta di altri tipi di apparati. Se non lo modo io, ti sbatterò. Provo, perché te lo dico subito? Attento Roberto, se mi vai copiando il cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Il tuo lo sento sino alla 7, è un pochino, ma nell'8 quasi non si sente, 2 canali di slatter c'hai tu. E cosa vuol dire quello, Roberto? Che sono molto larghi come modulazione, la modulazione è molto larga, per cui sto dicendo, creano più problemi questi piccoli baracchini che con gli altri tipi di baracchini, quello li voglio dire io. Non sono proprio altri tipi di baracchini, Roberto, che stai facendo, scusa. Roberto, tu mi sbatti un canale solo. Ma sì, tu arrivi a sentire. Tu non puoi mettere dei baracchini, che poi quelli che usiamo noi non sono baracchini. I baracchini sono quelli che usiamo noi, e come fai tu a confrontare un baracchino con quello che usi tu, usa Mario e usa Luca, scusa, perché il baracchino è quello. No, non mi sono spiegato, non prenderlo come un'offesa, Massimiliano. Io ho detto, siccome c'era un periodo c'era un discorso, in frequenza c'era un discorso di sblattere e cose del genere, che sentivano sblattere di 4-5 canali. Io ho detto, sicuramente uno tipo di quegli apparati che ho parlato io, di sblattere l'hanno molto di meno a parità di potenza rispetto a un semplice apparato. È solo quello il discorso. Poi non succede niente, se sei sblattere non è, se sei entro i limiti di legge tu come modulazione, come cosa, non ne puoi sbattere anche di 10 canali, non significa niente ai fini di cosa, di emissione. Guarda che tu rientri nei limiti di legge, io non sto dicendo quello, stiamo parlando di cose diverse, Massimiliano. Comunque buonasera. No, buonasera, no, ho sentito un po' il discorso, io non è che non mi offendo, a me non me la fotti tutta, perché io 27 uso baracchini, non uso che io voto che oltre 50-100 watt che non si possono neanche usare. E giustamente quelli lì sono più sofisticati, non puoi mettere tu, è come se io poi non farai una scusetta, una cinque cose, no? Scusa, infatti dice, quello che usa Mario, quello che usa Luca. quello, non è di baracchine né nuda. Io ho detto, il discorso, pur avendo magari qualche cosa in più di, a livello di potenza, però sono talmente stretti come emissione, io il discorso mio è riferito all'emissione della trasmissione, dico. E per cui anche se per dire di dare 40-50 watt disposti di un canale, quel coso non lo senti, lo smart non lo senti, almeno io non lo sento. Io ho l'antenna qua vicino e c'è un segnale quasi 9+50, mi risposto di un canale non lo sento. Per dire di Franchetto, che lui va lì, sta uscendo con 5 watt, mi sta arrivando 9+40 e fa due canali di sblatter, solo quello che voglio dire. Per cui era sempre ritornando a quel discorso famoso, se gli apparati sono efficienti, allineati, sicuramente l'apparato di quel livello lì ti crea meno problemi di spurie e di disturbi rispetto a un semplice baracchino, è solo quello. Poi se tu il baracchino ce l'hai omologato e ti sblatter i due canali, è sempre omologato e omologato, è quello il discorso. Ma guarda, io ho fatto la prova con l'osservatore maestrale, che ce l'ho un passo da casa, allora tu già lo sai che non sono 5 watt, come si sente, io uso un baracchino a casa, io non ne ho di queste radio così, uso un baracchino e mi sblatta un canale, uno solo, capito? E mi arriva proprio a fondo scala. Sono contento, quindi va bene, ti sto dimostrando, stai dimostrando quello che dico io, però molte volte ti trovi quel baracchino che c'ha l'effetto occolto, l'effetto ricotto, l'effetto qualcosa e mi sbatterà di 7-8 canali. A me mi è capitato qua di sentire gente che era molto vicino a me, non sto facendo nome, non dico nessuno, perché ognuno deve fare quello che vuole, non mi dà tutti nulla, ognuno ha le cose, detiene tutte le cose che vuole e non so cui va a giudicare, però mi è capitato che mi sbatterava a 6-7 canali, con segnali più bassi di quelli di altre persone che utilizzavano potenze più elevate. È solo questo il discorso, io non sto criticando a nessuno e non mi sono mai messo a criticare a nessuno, ognuno può fare quello che vuole, però stanno facendo delle osservazioni. Ciao ragazzi, ok, io stavo mettendo il puntino sulla i. Benissimo, accetto tutto, però dico, però me l'ha capitato un discorso, lo dice anche il Chievo di disturbo, ha detto tutti disturbano, se sono apparati manomessi, un semplice baracchino ti può creare dei disturbi allucinanti, come se può creare un Chievo o uno IAES o un ICOM, qualunque cosa, se stiamo parlando di apparati allineati perfettamente, che non tirano fuori mondetta, è molto più probabile che non tiri più la spuria, te la tiri più un baracchino che un apparato a carta, solo quello è il discorso mio, chiaro? Sì, ma no, io non mi offendo, per me non mi interessa, capito? Non ho di questi problemi, era solo per puntualizzare le cose, no? Che come si fa, sono discorsi che a me piacciono che fare, affrontare, e non c'è problema per me. Dai, riprendi Mario. Aspetta, comunque confermo quello che dice Roberto, io a me non io posso fare quello che vuole, comunque quel tipo di baracchino manda molte spurie, molte. Perciò se un baracchino, questo non è un baracchino ma messo una radio professionale, ok? Adesso mi allineate bene, quei baracchini, tutti i baracchini, attenzione, poi se sono spinti ancora peggio, tipo il vostro, mandano molte spurie, come dice Roberto, confermo. Quello tipo Roberto non arriva più forte, no? Quasi 9,35 qua, mi sbatterà un canale, tu può fare massimi ai 9,20, due canali. Frank, scusate se vi disturbo, mi sente qualcuno? Sì, avanti. Mi sentite? Certo, con le orecchie, avanti, chi è? Ciao, sono Michele, sto provando un baracchino da Fredanietta, mi esco bene, mi puoi controllare un pochino? Allora, segnale qua, 9,5, la radio è un po' bassina, comunque ti ascolto bene, dai Michele. Come, cioè la radio un po' bassa? Diciamo una radio normale, comunque già comprensibile, una radio di 4 qua, dai, avanti. Sì, infatti sono in macchina, dunque dovrei uscire con 4. No, no, vabbè, io ti ascolto con una radio di 4, non è amplificata, ecco, una radio normalissima di 4, 5 non te la do, poi non so se vediamo Roberto, quindi sarà più alta, però come ti ascolto, vai Roberto. Più o meno come tu, 9,10, no, la radio non è amplificata però è chiara, 5 pulita, difetti non ne ho, naturalmente non è la radio tua di qualche altro che è molto più forte, però la radio è pulita, non c'è nessun disturbo appresso, ti do 5 di radio. Vediamo Massimiliano che è più lontano, avanti Massimiliano per l'amico Michele. Allora, qua mi arriva sempre lo sci, io sono quasi alla fine della Buddy. Io sento un pochino come tipo di modulazione, comunque va bene, è un baracchino normale, va benissimo. Vi ringrazio. ringrazio. Comunque, perché stiamo provando dei baracchini che stiamo andando a fare fuoristrada a Portoferro e dunque stiamo cercando un po' di regolarli. Moro, coordinate. Hanno finito di fare fuoristrada, ma mettete sotto le ruote. No, ma parla mentre chi è avanti? Grazie a tutti. E se Pinocchetto attaccava davanti, Pinocchetto. Ehi, capo, dai. Pirlo con Lozano, scritta mia. Che tu, segnale ottimo, radio 5. Segnale oltre 9. E poi c'era un altro sotto. Chi è avanti l'altro? Sto per me, scusate. Attento, Pinocchetto al Moro. Ascolti Luca qua. Ordinate Sassari, cambio. La parola, lo Luca, dai, la parola. Direzione dove c'è con la tema lunga lunga, dai. Bene, bene, dai, tu per Roger qua, segnale tuo 9, radio 5, non c'è problema. La mia antenna non trema ancora, cappa. Avanti, boh, chi c'è Gianni? Anzi, dico, facciamo riprendere la falchetta, io mi assento 10 minuti, dai, vai falchetta. Ehi, cappa Pinocchetto, come mi vai copiando a me, Pinocchetto? Ecco per me. Ma mi trovo più bene sempre nella salita con Lozanos. Agappa, vedo. Mario. Invece è meglio più certo il Moro che Domenico a metà di vecchia. Bobo, strano. Il più certo è migliore, più chiara. Sì, ma Domenico è un po' di tempo lo sento, perché mette fuori frequenza, non ha mai detto niente. Hai spostato di 2 km, capito? Se tu infatti non ti sposti di 2 km lo senti meglio con il tempo tra cosa, Domenico. Comunque il Pinocchetto arriva a 9:10, 9:15 qua. Come ascolti a me Pinocchetto? Pinocchetto ci sei ancora? Che è? Luigi, Gigi, sei tu sei? Gli evocano? Pinocchetto, devi pompare che siamo bassi. Mi ascolti, Pinocchetto? Gamba Luigi, Gamba Luigi. Ehi, con Gigi e Volcano già abbiamo lo stesso stimolo, Quanto t'assomigli? T'assomigli parecchio, in certi passaggi, Pinocchetto. Facciamo la scuola assieme. C'è un po' l'antenna su in paese, modificata per la cosa c'è adesso? No, sempre la marcia va giù, come la piazzata. Claudio Fauriero e l'ufficio. Ah, così, qualche aiutino allora devi dare lì per farti sentire bene, perché in certi momenti ti ascoltavamo e in altri momenti eri un po' deboluccio. Vediamo qua chi è rimasto sul canale 5, riprogrammo Antonello, Falchetto, io, Luca, Mario, vediamo se c'è ancora, Mario ci sei. Cappa, fino a sei, ma a me mi senti, cambio, cappa, cappa, cappa di positivo. Cosa, già nel doppio rumo, c'è ancora? Sì, già. Io sono paziente. Ma questo non sei a casa, già. No. Magna le bizzette se ne sei andato. No. Date le sigarette o uno o l'altro, dai. Ma le sigarette le ho preso la grazietta, no, sono andato a fare una commissione, dai, per caso. Allora, vediamo se c'è qualche durata, attenzione, il canale 5 chi vuole entrare, avanti. Quanto si assomiglia a Gigi Vulcano, cazzo. Tanto molte volte fanno le stesse battutine, le stesse cose, Maria Eda, adesso mi sembrava, poco fa quando ha detto la parola mi sembrava Luigi. Lei adesso ha fatto la risata uguale a Luigi Vulcano. Ci ascolti, che non c'è? Così è, sei titolare Mario. Quindi Mario è il numero uno adesso in quella zona, non più Falchetto. Non c'è problema, Pinocchetto riesce a tirarmi fuori lo stesso, confermi Pinocchetto. Sì, infatti quello che c'è in ricezione è Falchetto, non ce l'ha Mario, e invece Roberto, quello che c'è la trasmissione là, non c'è il pacchetto in trasmissione. Comunque, se avete le antenne, vedete, voi siete due, una trasmissione e una ricezione, non c'è problema. Ok, dimmi un po', tu ti stai aiutando pure, tu stai uscendo che non c'è. Ascolto sempre perfettamente, qua sempre a bomboletta, radio 5, segnale dall'8 al 9. Hai mano? Ma sei già? Un attimino solo, voglio vedere se mi ascolta la macchina. Pinuccetto, mi ascolti? Ma tu hai usato il piattone della Grand Plain, i radiali, neanche il pulottino centrale gli ha messo la cosa, ha appoggiato sopra la manta, ma lui mi la manta, ma a tubo 2001, così l'hai fatto? No, dovevo fare così, ma non l'ho fatto ancora, perché non ho buscato ancora la base della Grand Prix. Appena busco la base della Grand Prix, metto il piantone della Grand Prix, li metto i quattro radiali che ci vogliono, quelli corti naturalmente, tengo la mini Grand Prix in pratica, e monto la base, e ci metto la base da 2001, in pratica mi diventa una Grand Prix, diventa una 5 traffic, capito? E c'ho un lago di reazione di 35 gradi, dovrebbe pompare un bel. Perché l'unica cosa che ho fatto adesso è che c'ho l'antenna della macchina con l'attacco del specchietto e dove c'è la vite che aggancia per l'angolazione della barretta ci ho messo il radiale, in pratica un filo 4 onda caricato e in pratica mi fa da radiale, tipo boomerang è messa adesso, capito? E sto facendo così l'antenna. Ma c'è l'antenna macchina, si vede da fuori? Sì che si vede, basta che passi domani la guardia si vede, auguria. Voglio vedere com'è fatta. E senza radialini come c'è con l'antenna? Ma penso che sta bene, non lo so, penso di sì, perché è lanciata a palezzo. Il palezzo è 50 cm fuori dal terrazzino. Sporge. Vuole provarla io giù a Patamona, ma questa poi fa anche quella che sto usando tu. No, me l'ha regalata Fabio questa a me. Al solito ce l'ha uguale, al solito c'è tutta l'antenna completa. C'è la base e anche un filo, io invece la base mi manca a me. E poi sono metto un filo, senza la basetta, con la carica dentro. Capito, dai. Perché io con la mini Grand Plane, quella che c'è radialini in resina, non è che andavo da nessuna parte, con quella fatta a canale a pesca uscivo con la bomba giù dal mare, con un quarto d'onda, fatta un quarto d'onda, però dove sono quest'anno non la posso mettere con l'antenna. Falchetto! Mi hai chiamato Falchetto, avanti. Stiamo provando l'apparecchio. Prova. Chi è, avanti? Vado in chiave Falchetto. Adesso stanno provando l'apparecchio, deve essere qualcuno nuovo. Sto avendo comunque qualche multimone, perché ci sono i bip di multimone. Non va che i due, ma se non è multimone 3. Aspetta, facciamo entrare. Avanti in chiave Falchetto. Buonasera. Avanti in chiave Falchetto. E facciamo sentire a Pinuccetto se c'è ancora. Attenzione Pinuccetto, se copi questa stazione, avanti. Oh scusate, stiamo provando un apparecchio. Va bene, risposta a Pinuccetto, sentito la vetta. Allora risposta. Quindi c'è quello che non riesco a capire però Antone, tu hai preso la Turbo 2001, dove c'è la carica, e come hai fatto a fissare l'antenna? Cioè ti hai fatto una specie di piattina L così, tipo quello dove c'è il supporto della Grand Prix, quello che hai attaccato? Il supporto L c'è, infatti, esatto. Però la base a specchietto, ce l'hai presente quella cosa di camion? Uguale ce l'ho io. E poi di lì hai messo uno filo in orizzontale, ho piegato a 45 gradi per il radiale. Sì, non 45, 35 comunque. Cioè invece io siccome c'ho la mini Grand Prix e sono tutti abbullonati gli fili, c'è la parte centrale dove attacco gli fili, diciamo il gruppo, come lo chiamiamo, il piantone, in verticale punta lo stilo verticale, poi ci sono i quattro radialini a vitatura. Se non dovessi mettere di lì la Turbo 2-1, come faccio? Un casino, non mi cercate una mini Grand Prix per FM, già ce l'avevi tu con le antenne. La mini Grand Prix FM, già lo sai, c'è la base quadrata, già, fine. Dove i radiali sono agganciati sopra, capito? Allora sì, come fanno quel discorso, mi stacchi la basetta con l'attacco al frizzatore PL e ci metti la base da 5 ottavi, tranquillamente agganciata sotto. Io ho una vecchia antenna, che ho usato quelle antenne vecchie a mollone, c'avevo una base piatta, diciamo, col foro in mezzo e c'è la vitatura del PL. Se riesco a fare così e utilizzo, vabbè, devo vedere come hai fatto la tua, prima di tutto per capirla, come hai fatto a fissarla. E poi, se va bene così, visto che te andava grande, voglio fare come hai fatto tu. E così, ma infatti te la guardi. E poi qualche cosa che si studia, se c'hai qualcosa che si studia non ti preoccupare. Ma vabbè, facciamo le prendere gli altri, se no si monopolizza. Avanti Mario. Mario non c'è. Avanti. Nessuno. Comunque, chiacchierate, io mi ascolto, dai. Mario, uno di chi si chiama Lucia, ma lui vuole 5 minuti a rispondere. Lucia e Mario. E pulsa. Tu vai, il microfono è aperto, andiamo a parcheggiato e deve andare a schicciare il microfono nell'altro appartamento. No, perché mi hai fatto risposto. Ah, Gussile, va bene, sappiamo una cosa in più. Avanti, Falchetto, dai. Via, no, è una buona idea, eh. È una buona idea quella di Pompone, perché ha fatto un bel sistema di antenna, tutto quanto, radia bene, spinge forte. Guarda, è l'ultima, provare, non costa niente, vabbè, basta provarla, vedi un po', sali, vedi come l'ha fatta e poi quando vai a male la provi, capi tutto qua. E infatti, no, allora, in una casetta che ho di lì mi sono trovato bene con la Grand Blind, e male con la canola pesca, mentre nell'altra casa con la Grand Blind, una gaggata con quella canola pesca, una bomba, segnali allucinanti, proprio riuscivo ad andare benissimo verso San. In questa casa purtroppo quella canola pesca non la posso mettere, perché quella c'è una resa allucinante, perché non viene bene, e ci ho dovuto mettere la Grand Blind, la mia Grand Blind, però era argomenti che non avevo di antenna, solo verso il mare andavo bene, verso Sassari c'è tipo due o tre persone, ma quasi nessuno mi ascoltava. Vabbè, provi quella, provi vedere un po' come spari, se va bene, se va male, è tutto da provare, vabbè, se non si prova non si può mai sapere, capito? Non c'è problema. Allora, riepiloghiamo Falchetto, Roberto, Mario e poi non so chi ci sia. Avanti, vediamo se nel frattempo c'è qualcuno. Avanti con la buonasera, ti vuole entrare sul canale 5. Nessuno messa. Vediamo se Luca è rientrato. Luca, ci sei? Doveva darmi una risposta, dice Salvatore Maestrale, mi doveva dire se domani è riuscito a trovare i biglietti e non si intende. Vedete, un quarto d'ora sto entrando. Rifugio, un'ora va. Prego, abbassa. Oh, mi ha chiamato lui poco fa per telefono, mi ha detto, mi lavo le mani, ha detto, 10 minuti, un quarto d'ora sono lì. E la sera mi arriva il posto molto lontano. Alla Villella è andato a pigliare leva. Dove è sus? A sus. Io credo della memoria. Sì, c'è anche l'antenna uguale alla tua, quella celeste, la armoniastica, si chiama battuta. L'ho provata, ma non vende tanto questa qui. Ce l'ho qua, io la mia non l'ho fermata, ce l'ho. Mi hanno regalata, ma non vende. Questa me la tengo come c'è, non te la solo esclusivamente per trovare i baracchini e basta. Oh, non è questione di resa, è questione che va piazzata in altezza. Se tu la metti bassa non ti rende niente con l'antenna, in altezza rende, capito? Attenzione, ho trovato Falcone, ci ascolto. Ho Falcone, quello al sorso, Guarda, ho scattato quella della macchina, ci ho messo l'altra, anzi, io arrivavo molto più basso, da Natalino, ho fatto la prova stamattina. Allora, preso e ci ho rimesso nuovo quella della macchina. Capito? Io ho fatto l'attacco in mezzo, con due pareti piccolini. Quando voglio, faccio l'altro per volare i bruciini, una 13, a paletto, e in mezzo una metto l'altra. Capito? Già pronta per installare in qualsiasi posto, fatta. Fatto è, quella spara in altezza, lo vuoi capire o non lo vuoi capire? Se la metti in bassa non vai, a nessun posto vai, capito? Allora, che cos'è che buono? Un paio di 15 metri provate una cagata così, non saranno. Permetteci un paio di 15 metri per scoprirmi la moto qua sopra, faccio prima. Sinceramente parlando, questo va bene, solo così, provvisorio e basta, è una cosa di fortuna. E boh. Capito? Solo così va bene. Avanti, dimmi. Vabbè. Non mi ricordo dove, se era su internet o su da qualche parte, questo tipo c'aveva problemi tipo te, c'ha un terrazzino e non può mettere antenne. Ma sai cosa ha fatto lui? Ha preso una di queste antenne bazooka, ha attaccata la ringhiera, non c'era altezza né niente, e dietro si è messa una parabola, esattamente dietro l'antenna, come riflettore, dice che faceva dei collegamenti allucinanti, in una direzione soprattutto, però dice aveva delle rese allucinanti. Vabbè, se ripete l'antenna attaccata alla parabola, per forza di fare la riflessa, è logico, no? Perché l'antenna è corta. E come va bene, una parabola è un numero di punte di gomma, di quelle di portatile, e ti fa il decoro. È logico che ti fa la riflessa della parabola lì, che ti risulta interessante che te ne supporto, no? Addirittura dice, questo c'era sulla 27, però lo faceva per connettersi a un ponte ripetitore nelle V. come si chiama, c'era un problema, dice non riusciva a farla, si ha messo l'antennina per le V e riusciva a prendere un passaggio di onda, non so che cosa, con la stessa parabola, e riusciva a prendere la caccia del ponte, in continente questo, non qua in Sardegna. E quello per quello è una parabola perché passò per il casa, poi dovevo invece che lungo la 50 anni che c'è la canciata, e la parabola delle cose che si fa la variante, anche per la variante so, perché in alluminio. Beh signori, io devo interrompere che forse semeranno quando avevo qualche cosa oggi, se no mi dopo. Ok, vi saluto tutti, ciao Antonello, ciao Falchetto, ciao Mario, ciao Luca e tutti gli eventuali amici sul canale 5. Cuoretti da parte mia, ciao ciao a tutti. Ma riprendo io, ciao Roberto, buon retimo, 144 lo fai e tutte le prossime. Riprendi, buon pure per i saluti a pagina. Via, ciao Roberto, ci sentiamo alla carica le prossime. Va bene, buona carica, buon tutto e buona partita per la mare, se vai giù a Cagliari, dai. Speriamo che non ci metta la strada con scritto faccia, di solito non metto di niente a tutti i vetri. Grazie. Sì, altrimenti, guardate voi quel microfono. Non voglio uno sguardo con quel microfono. Non c'è che fare il palo stasera, poi invece stavo facendo parlare fino a tu, c'era una vestita bruciata, gliel'ho cambiata, nella parte dell'audio era. Non c'era come stasera, c'era un pezzetto che non funzionava, poi adesso devo controllare il resto della cosa, ho comprato una bobina, ma quella non c'è niente. Adesso stiamo cercando l'altra cosa, così mi è venuta il finale, perché in pratica non mi sta oscillando. Né uno né l'altro, c'è un parte della parte c'è 50 mm nemmeno di potenza, non mi sta oscillando. E ancora la vedete, diavolo di successo. Quando quel finale è andato in corso, da solo, che si è bruciato, mi ha incendiato qualche cosa. Adesso vediamo di. Insomma, più il coso, vado su internet, mi piglio lo schema, faccio prima quello schema. No, c'è la fretta, proprio, non ti preoccupare, vai un comodo, al limite se hai qualche, no niente, niente, mi interessa che mi fai allora quel microfonino, così lo proviamo. I K, oggi si vede bene con la torre, tutto illuminato, cosa è, dai, tutto illuminato, è la città mercato, sembra, allucinante. Qui si vede tutto bene, eh? La macchina che scende da Monte Oro, vedo, da qua. Scusa, vita, eh? Io ti vedo che c'è la rosa, arriva ancora, ti vedo, dai, non vedo. Sì, guarda, io che c'ho il binocolo, quello che è piccolino, diciamo, là, se avessi avuto il telescopio, avrei visto la gente piscendo a Pantatone con la canna da pesca. Calma, già che non sistemo questa merda, perciò c'è addirittura un coso, un tanner, un tanner, non un tanner, una spada 500 c'è dentro, c'è ancora qua. Già che lo sistemo te lo do questa merda, non ti preoccupare. Ma perché? Era per saperlo. Perché tu già lo sai che ogni tanto ti dimentichi di me. Dai, un po' pure che ti metti e dimentichi. D'accordo. Ciao, Vela. Non c'è più la Vela, mia amica. Ciao, Vela. Sono andata per farmi, aspetta, un attimo. Un attimo di bianco, Mario. Un attimo di bianco, Mario. Via, è un goccio di rosso. E io invece ho un goccio d'acqua vite. C'è Mario adesso, perché sta bevendo la qua vita in barrando. E a Londra, a Parigi, New York. Va bene, va bene. Mario, lascia stare la qua vita che poi ti fa cantare. Ma no, a me non mi fa. A me non mi fa cantare, mi schiarisce la voce, cappa. Allora, bene, faccio sognare, dai. Tanto voglio sognare proprio come. ho ripreso da casa, adesso mi sono mangiato un boccone e ho ripreso. Buonasera, buonasera a tutti di nuovo, avanti per Paolo, con la buonasera. Io, ciao, buonasera, buonasera a tutti i circolari, dai, anch'io sono il trattoresso adesso, sto cercando di sbrogliare questo filo della cuffia, e si è tutto annullato, quello che non ci compreso una cosa. Si è girato, no, anche a me me lo fa. Sempre qui lo piego bene, li metto quel fermino, quello tipo di ferro, così ricoperto di plastica, me lo chiudo bene, tutto quanto troppo grande, prenderlo e si gira. E vabbè, domani lo sbroglio, la mano non è che vuoi più una roba, vuoi più stai, la mano su, si senta a cuffie, dai. Ma capo, non dite parolacce allora, che se no i bambini li senti. vaccinato? Sì, io non credo. Lui ha fatto, tutti i vaccini, lo fa anche uno ogni anno, vuole fare l'altro mese, mi sa lì, quello annuale. Lei ha chiesto di tanto. Amicizia stanno facendo? Sì, già stanno facendo amicizia, adesso quando gli manca. Io non so che si è messo a mia guardia perché non l'abbiamo riportato indietro. E anche io oggi ho finito tardi, ho finito alle 8. Questi sono giorni cruciali, sai, praticamente facciato così. Quello di Zetti. Kappa. Poi attenzione, a me mi fa diventare scemo, perché nei negozi vogliono la roba, le consegne, andare fuori, un po' di tutto, guarda, il macchinario da pulire, poi io... Avrò fatto 300 km oggi minimo. Io non li ho contati, comunque sono andato a Soto, sono andato a Platanova, stasera è questo qua. Poi ho fatto una consegna agli ormeggiatori, una pedana di roba, poi ho pulito il macchinario delle bottiglie, poi i negozi mi hanno chiamato, uno gli serviva quello, l'altro gli serviva l'altro, alla fine mi sono rotto le scatole e ho detto, beh ragazzi, sono l'ultimo, voglio giocare a niente, a domani. Giuseppe, non si è sentito fuori, no? Come si chiama Natalia?

dice pure i geni, tutti arrendetevi. Figati. Figati la pari, tutti arrendetevi. Guarda, io sono arrendevo. Il suo travaglio è aggiunto e io sono abituato a fare la guarita di Zanti, capisci? Come andiamo a 20 passati? E devi tutto a mano, me, Maroni, 20 passati. E carraci un muro. Ma cosa mi facciamo a dire a un barraggio? Sassa qui di Guattaria. A prima dame è un collegamento che va da Ituria, sta cribando. Come sta dicendo che crema la giura? Fidati a Guattari, ti faccio a Bugi, fidati. Io non mi avevo fatto un Bugi, ho detto vai via, io mi sono rimasto solo. Cosa fai Bugi? Io se mi faccio Bugi a me, mi sono arrivato camminando brutto. Faccio una sessetta a Maita, andai io, ci cogliamo un po' di panda, e tu cazzo, fai un giro, vieni piano. Ah, no, non è fatto il piano piano, no, mio. No, ma mi facci, ma c'è a piedi, non ti bisarrà. Poi mi fai, ti metti, siccome tu ti bisarrà, faccia di cammella. Luce, sono volte che fa il maglione, Lucio tira bene, no? Quindi dallo sfogo, quello non deve scappare, non sono maglione. Ok, poi vabbè, li porti lo sfogo, ci sono muto lo sfogo, no? E poi che ramattoni, a andare a ruota di collo, lo su, garrati e passati in buraedo, e poi mi la sentia. E non ho bisogno più di lacri, cazzo, io addirittura una volta la giura, mi sono bisogno più di lacri, vendi, invece di mettersi nel barbe, ma allora mi torna a me la giura, se vuoi bene, puoi fare così, praticamente sarò uno più sano di tutti lì dentro, e chi doveva di malato nella schiena, chi ha avuto un infarto, chi ha avuto così, chi ha avuto guanti, e una cosa che mi sono usato quando si può passare a me. Cioè, lavorano anche loro, ma lavori più pesanti i scuoli li faccio io. Ma lo sai, ma io non ero invalido lo stesso. E mi stavo in corso nel corso della maledetta. Beh, però una cosa, mi auguro, cazzo, avevo il preferito, mi divorsi per i maniari. Mi divorsi, mi ha chiesto, non ti puoi scrivere, non dirò io, eh. Dai, che non c'è paragone, l'albergo urbano. La manutenzione non c'è paragone, la sappi lì, fidati. È tutta la sua cosa, è molto molto più pesante. Tu non vuoi la tele, se non li facendi, a te tutta la giura, poi prendi Dio, ma c'è buffurelli. Ma a me mi pare che sei impiegato sul bagaggio. Però vabbè, ma è già tutto bagaggio, però. Guarda, sono tu qua. Tanto non vai, a voi è un casino. Allora, lo posso. Certo non lo danno un colpo di mano, ma fatene di voi bisogna, perché io vado alla sala da vedere un muratore, amici di Luguru, per prendere una mano, ma non fa nulla, no? E io non vado sempre di continuo, sempre, e la giorno mi vado in indiano, allora i Murienti, allora i Murienti. Perciò se lui ha fatto una domanda, la domanda gli è stata accettata, l'hanno preso per 4 mesi, lui deve entrare e quello che faccio io. Sono che ci dicono più di non va più più pesanti. Se vuole io non dico più nulla. Io riferisco e basta. E perché la prima la faccio? Non me la funzione perché non mi chiama di più. Mi sembra che me la dia e sono come la una tessi. No, sì, lasciami in pace, non devo fare manco giù. Tanto non ti vuole che c'è già, fa 4 mesi, il muro se lo fai un cazzo, non ti vedi niente, e mi approfitta ma per quello, allora non hai capito, dimmi lo tu mai, se no cata, mi fai arrabbiare un caldo, vado da un cielo, ti ritiramenti, se non mi fai vedere l'asso, non mi devi fare manco giù, cazzo, voglio vedere che è un carro, e questa dove ne vuoi su burrastri, anche se tu fai vedere i travagli, il mio dottore non ti dice niente, fanno lavorare sempre a te, non hai capito? L'hai inviato il bagaggio, mi è sentato di avere un arco di gomma, pure per noi, capito? Tu quando mi dico si fa il desato, a te pure quando ti chiama, non hai vinto di mangiare, non hai vinto di seccare un mento, non hai vinto di seccare la cosa, l'altra, e la bella mi dice, ma la ragione non si va di me. E là ti dico, ma non mi posso più appagaggio, che sia ben chiaro, perciò, vuol dire che farò furbo anche io, però non va, Allora, se tu mi dai un incarico a me, no? Tu sei un giovane, mi dai un incarico perché purtroppo comandano loro, perché hanno loro l'incarico tutto, il materiale, tutto. Perciò ti vogliono comandare loro. Se tu mi dai un incarico mi dici, Luca, tu devi fare la pettorina in pasta e basta, va bene. Infatti tu mi comandi e mi vado in carra, no? Infatti adesso lunedì, io lo metto in chiaro. Ma mi fate fare una cosa o me ne fate fare un'altra, altrimenti io qua, arrivederci, grazie, ora continuo con di malattia e mi vuoi tutti e tre mesi di malattia. Ma quando non entri più si fa così, invece no, lei fa come ti fa di rati, quando ti fa una cosa tu sei che non è, tu ti lasci le scarpe, di no, ti fa che cosa, no? Ma la puttina c'è un guardia di tratta lì. Posso un po' di buru io, e siamo una puttina. Se saltato lui, lui sono tre somminati già, che sicuramente non li faranno più entrare. Poi bisogna vedere. Comunque addirittura ce n'è fuggito a sta lì, un fuggiante, ce n'è fuggito a Cremadu. Addirittura ha muovato un ragione e tu mi siamo affendi, a me l'ha detto, tu mi stai uccidendo. Ha preso, non so se ne è andato, e poi faccio una mancudese, ma con quattro, è arrivato da, purtroppo da lì a piedi, ci hanno accompagnato giù a... L'ha mandato da solo, mi dà da venire da giù, è una fede che mi dico e fermi tutto quanto. Ehi, non ho compreso, se si vede che lascia a travaglio, non devi dare una mancudese, ma con tu. Compreso là, a chi se no è inutile, fatti mi voglia sempre a te e io lavoravo che sono capitato a lavorare, chi se no lo sicurino quasi un cazzo e non mi sicurino neanche il fura, è presente, l'importante è che tu vuoi una radia, tutti i tre mesi, ma intanto tu non lo cura a uno. Signori, fine del permesso, vedrai, correte la parte mia che va a correggiarmi. Ci sentiamo tutta le prossime. Ciao Natalino, ciao Luca, Pierpaolo e Lucchio Lu, tutta le prossime, dai, ciao ciao. Ciao Mario, ciao, alle prossime, dai, buon tutto. Avanti già. Ciao Mario, buonanotte, alla prossima, ciao. Avanti Pierpaolo. Non è più nessuno. Capiterà un carattere, cioè, se il lato ci mostra, non mi mostra più giù, cazzo di no, oi, cazzo non è di cui, quasi ne va la si rivende la faccia a due. Cazzo di uva, è il mio buco. Cazzo dice più fumendi, io non fumo, vabbè, non me la fuci una, dai, però, picco. Cazzo, lui non sta dicendo più fumendi, sì. Qui sono come a travagliare, sì, ma... Cazzo, ma ti ricordo male che c'è più buitolo. E non si butta, c'è tu non vedi, è luci di luci, lui con lui, salta un cazzo e non si sporca neanche. La divisa c'ha sempre bella luce, la scarpa, se tu li vedi, la dice che è un negozio. Perciò, sai che non prendi mai nuda, sei sempre in chibi, a posto di lavoro non fai nuda. Tu, si vedi, chiedi, ma quando un cazzo ne deve fare un cazzo, ne manco giù. Poi devi dirci, come è, si deve ricamere un cazzo, da tre volte, e poi si camminerà. A chi sa tre volte, ma è forse si vede da niente, cazzo, non travaglia. Cazzo, la cosa, se tu fai un passo, cazzo, mi devi venire a o no? Purtroppo non è usi, Natale, non è utile di tu. Cioè, vedi, la si usi. Ma fanno i furbi. Fanno i furbi. Fanno i furbi. Capito? Vabbè, comunque. Ecco che il bagaglio non vi basso, perché è poco ma sicuro. E un nozzo, la vecchia mia, adesso mi limito, ma mi limito veramente. Io martedì mi limito. Ma mi arrangio, non mi interessa, forse non devi fare gli altri. Quindi tu devi limitare, allora, cazzo, io lavoravo con uno schiavo negro, chi sa, non è fatta il giocato, ma ci trovo meglio che per di me e capito? E non facevo più di quello che dovevo fare. A qualcuno se volevo aiutare, se non lo aiutavo perché non mi competeva, capito? là. Cazzo! Confondendosi, noi che volevamo le servitone, ma ci ha fatto un culo e andare là, sai? No, ma chi è arrivato? Ma mi ha pulitato un po' il canale. Noi saremmo appostati, deve essere una riflessa a questo argomento di lavoro. O ti devi limitarlo, io te l'ho detto. Se no la mia ti ho fatto tanto e di cazzo ridendo e ti moscati. Hai preso? Che pittina? E infatti, avevo fatto ballare che si era più ballato, ma non preso. Ma infatti era un uso, allora ti spiego. Se io faccio un impasto, no? Ti spiego, no? Tu mi vai in carico, mi dici, lui qua tu sei la bettoniera, ok? Impasto. Come per con l'impasto? Siccome i due mondelli, gli basta prendi andare a lavoro con i punti, io mi sono un fermo che si è fatto la prendere, ma l'impasto mi devo guardare a culo. Ma se mi sono messo in fermo, non ho fatto un po' di cemento. E un po' ne avevo portato il parallasso, di però. Non tutto. Hai un preso. Se c'è la vettura, se c'è la vettura era il buco, qua si deve ricavarmi da quei segni. Cazzo, adesso è anche a corti così, quindi devo fare solo del buco mio. E se tu non vuoi fare un cazzo, non ti sicuro pure a nessuno, ma 4 mesi, non ti perdi niente di più. In chimica, ma è un rischio. Non sei una vita privata, non mi devi dare la percorsa. Che l'ha detto? Si stava parlando di Simone con il fuori, come si? Pagando! Per 4 mesi non ti fanno un cazzo, anche se non fai nulla, non dai un buzzo invece. Ma quello non ti segnala ora, in realtà. Ma cosa sono i grandi? Il signore Mancadone era un gatto cazzo, era andato all'ufficio personale, un gatto cazzo di rapporto, ma con te l'aveva accusato. Non lo possono fare, no! Tu segni, il movimento è pubblico, capitolare, non sei una vittima in un'impresa. Come se non fai un cazzo, non ti vuole di nulla, non è che lascia una vittima di un cazzo. Se lascia una vittima di guidi, dove fanno voi buoni tutti? Anzi, non è che lo guida, mi va, e mi va a travagliare l'altro, che non è un preso. Io non dico che non fa niente, perché io pure io sono abituato a lavorare, cazzo non fa niente e non ti ci passa mai la giornata, capito? E lavoro per quello, perché se non sapevo non facevo proprio nulla, nulla di nulla, manco dalla macchina mi riparavo. Basta, e basta, e faccio tutto. Arrivi, ah, arrivi. Basta, che ti travagli, fammi l'impasto, Luca, io. Diamo tu, sono tu, asciutto o rifugio? Ci attacca il muro. Ma così non lo so più fa. Non impara ancora, devo fare il posto utile. Ma io come se avevo fatto una gara. Ma fare, la fai fare con tu. No, poi io ci rendo un uomo per la vettoriera. E il mio non so più fare, uomini. Tu la vettoriera, anzi, la ci vuole l'occhio una vettoriera. La so più trattarmi. E perché se andrai a cane e a giocarrarti, che non ti credo, non so come fare sul travaglio. Ah, no, poi mi fai rischio, no, mi stai utilizzando che io si imbruta il tuo gatto. Dopo l'ho chiamato, un cane, vieni, apre la bettoria, tanto così mi porto lo impasto, lo finiamo e via, vai, così già pronta, la chiudo e buonanotte. La mia bettoria, cosa ho fatto? Mi sono messo il pulsante a farla partire. Tutto bene, non è Maeda. Senti, ma scusa un attimo, non è quello che hai fatto. Non lo so pure io. Se ti prendo una bomba, la via, la via. E ti sei seduto in occhi. E se cosa non lo so pure io. Fisso. È proprio cucchiato, per carità, va. Adesso, quindi mi sembra la mano. Ma è così, ma la batti e poi rimane secco. Mi viene senti qua, perché il cavolo la massa a terra non lo mettete tu? Sì, io mettiamo la civiltà, però cazzo, cioè, dammi un po' di riguardo anche, no? Non è che disattento tutto, Ma non capo cazzo che è, boh. Io non so ma quanto cos'è Fendi. E dopo che fate, fate selezionamenti, no? Solo mi dà un incarico, lo faccio e basta. Se tu vuoi devi travagliare, Fendi dice, non c'è problema, te lo faccio. E già vado, la carica di un furgone, dove un lascio. Allora diamo una mano che dobbiamo carrare, un carrare poco di impasto. No, faccio qualcosa di tu, mi piace di furgone io. Vabbè, Chini. Lucas si fa prelare, deve lavorare lui. Ecco, gli altri c'è cosa fare un caso, giusto ti sembra la svegliata. No, infatti non mi sembra giusto, mi stavo parlando proprio con Luca di questo discorso, non mi ricordo se era ieri o oggi, no, ieri mi sembra. Non mi sembra giusto, no. Ma infatti a Luca gli ho detto, se ti devo ottenere, cioè, fatti vedere un po', nel senso che lavori, roba del genere. Se non ti devo ottenere, fatti tenere le palle anche tu come fanno gli altri. Tu non mi vuoi ottenere, Massimiliano? No, no. Sono sicuro che magari... Tramite loro, un'altra domanda, magari ho più possibilità, perché sai che mi devo fare, capito? Non solo faccio ma non fare, ma io anche a stuccare tutto faccio, non è che ci vado a zappurata pure giù muro, non gli altri non fanno niente, ma alla fine è una baretta, ma come vuol dire a pigliare la baretta? Ma giù bassi, ecco, un giumento. E ci vado con un colpo di mano anche la baretta. Non te ne mettere in testa che ti mettano a fare le buone, no? Sono entrate e soltanto due anni fermano se l'altro e con tutto che loro lo sapevano che io lavoravo, capito? Allora diciamo che sono entrato per di un euro, qualche volta mi si vuole aiutare, come mi aiutavo e si lavano da Dio, addirittura si pulivo, non mi riparavo manco dalla macchina e si arriva tutta Eddie. E vabbè comunque, non c'è problema. Dice ti lamenti, bomba, come un attore inizia, lui fare quello, sposta quello, ti dà quello, fai quello, vai là, bomba, bimba, bimba. Ma comunque, vabbè. La fai, alla fin fine conviene farlo e buonanotte. Però le cose, non, diciamo che se non sono organizzati bene, ecco, sono disorganizzati. Perché se le cose, a ognuno di noi, perché il muratore fa il muratore, e anche il muratore fa anche il manovrare, se tu non vuoi sapere. Comunque, se noi abbiamo un incarico, fammi fare solo quello, un tratto, mi dai la dose, e poi passare sempre uguale. Cosa che ti fai chiedere? Puccate, poi vai qua, questo, poi metto un'altra, poi hai impatto e non guardi mai. Guarda, fanno veramente le cose che... Non so, non è chiaro cosa stiamo facendo. Allora, io lo so come si funziona a Chimini, c'è una disorganizzazione totale, cazzo, in Chimini qui si muove manco un giovane, un giovane tra, compreso là, in Chimini cazzo, in Chimini si muove e non è buono rimasto. Attori, sì. In Chimini ti stai guardando? Non sto neanche guardando la verità, perché sto parlando, c'è la televisione accesa. Allora ragazzi, se fa vedere la faccio comunque, siete a televisione. O se no se ti vuoi fare due risate mentre ciao Darwin, che c'è ciao Darwin. E abbassa un pochino la radio. E mai se ci voglia il microfono. Sì. Pizzina. Quindi cazzo, ma tanto mi danno non ti mi danno in Lucca. E mosca di Burudù. Ah, ti vanno i maculati, cioè che sono prendi di macchi, tanto non ti dicono niente, perché te lo so che funziona così lì. Dopo dei giorni. Buonasera. Buonasera, dai, è una rotta, ma mi sono messo a guardare roba al computer un attimino. No, no, io non lo sapevo che c'è, io ho sentito solo a Luca e a cosa, Natalino. Niente, non sapevo neanche che c'è. Chiama, chiama. Avanti, dai. Sì, c'era anche Pier Paolo per fare. C'è per fare, c'era. Adesso non lo so se c'è ancora. Ah, quindi siete andati, non avete detto niente. Ti ho chiamato, anche non hai risposto già. No, ma io non sto dicendo niente, ero io che mi stavo sempre per la computer, 5 minuti. Sto guardando la posta, non è che stavo facendo niente di che. KK, non so cosa c'è. C'è sempre il football a volo. Oggi ho avuto parole anch'io con un mio collega. Mi ha visto che ero pieno di lavoro, mi ha lasciato quel macchinario delle bottiglie senza pulire perché ce lo devo fare io. E da quale parte? quello che devo fare io per fare anche se ma tu con te sai cosa devi fare. No, ho proprio paura, io quando io sto facendo altro, cazzo, ci avevo sopra la tavola una pedana a consegnare al porto, insomma proprio un bel travaglio, dico sì che volevo colombe, uova, questa e quella. Beh, non sai che non ne ha fatto, l'ha lasciata bloccata la macchina e la gente sta lamentando. Ci hanno telefonato anche dal centro, proprio dove far mettere queste macchine, no, ci hanno telefonato dicendoci che c'era la macchina bloccata perché non c'era il terminale, no? E sono dovuto andare io e infatti ho finito a portare. Ah, cosa fa questa macchina qua? Ah, le palle delle bottiglie che ti butti. E ogni bottiglia che butti ti dà due punti. E questi punti servono per ritirare i regali, per fare spesa gratis, eccetera. Ah, ho capito. Ah, sì. E ho fatto l'oggi, l'ho fatto a subirla, solo noi. Mi dico che la macchina bloccata, io ti subito nel travaglio e tu non fai il cazzo. Gianni. Sì. Ma tu avevi preso quell'ispezione di Abruzzi, vero? Lì la cosa, a Torino. Sì. Ma i PL cos'erano? Quelli che avevano il gommino vero dietro? No, i PL sono quelli piccoli. E quelli buoni, là, diciamo, quelli corti. Scappa. E quanto, non per farmi fatito, quanto te l'ha fatto pagare uno spezzone? Ma si è una domanda di 10.000, non me lo ricordo perché ho preso anche altra roba e non mi ricordo quanto costi. Perché a te quanto ti ha chiesto? Ma perché io stasera sono andato a Foggiano che mi serviva della cosa, ho preso della cosa, un fusibile mi serviva, le capicorda, questa roba così, e gli ho chiesto dei PL ci aveva quelli che ci vuole, il dottore dietro non ne ho preso, perché fanno veramente schifo quei PL che ci vuole il dottore dietro. E allora ho detto, ma mi sa mi faccio il salto a Torino, li prendo da lui. E anche lui aveva quelli che ci mettevano il dottore dietro. Gli ho detto, ma aspetta un'impronta, ne hai? E ho detto, sì che ce l'ho. Però gli ho detto, guarda, io non voglio quelli pieni, quelli corti, quelli che non c'hanno la gomma dietro, non era. Me l'ha dato, me lo voleva far pagare 7 euro. Io ho detto, no, io 7 euro non te le compro. Gli ho detto, dammi 2 PL e lo spezzone me lo faccio io. Gli ho detto, io ho 5 euro, e dammi 5 euro, ti appronto. E a chi vuoi, ma non ci cazzo, se sei papiri, io non ho mai comparato di chi si batte, mai. E mi dice, ma tu in via le vuoi un dottore, se devo pulire la 58. Io ho anche la 58, però lo sai cos'è, Natalì? Che quei PL lì sono un pochino lunghetti, capito? Non mi avvita bene la baracchina, per quello mi servono il corto. Ma che l'ha detto? Io tutti gli altri difetti, cazzo, chi ha sempre di lui mi ha pagato. Così Guido non riuscì a tirare il 213 nel PL, io non posso vedere se impiego tutto. Beh, anche più non sono lì, spesso non posso vedere tassucchi. Fanno i comparati. Ma non mi ha capito, Natalia. Allora, nel mio tornado, per esempio, dietro dove avete il PL, la filettatura è molto lunga. Hai capito? Cioè, vuol dire, è molto corta. E quando tu vai a infilare quel PL, vai a avvitare e non avvita bene, capito? Rimane il polo caldo, rimane in movimento. Hai capito? E se non è strano, perché sono le intacchi per bloccarlo il PL e deve avvitare tutto. Mi sembra strano che faccia quel difetto lì. Ma se è più corto all'intacchi non ci arriva l'altra. Tu mi devi arrivare gli intacchi, ma tutto mi devi arrivare. In qualsiasi apparecchio ci sono gli intacchi, no? Tra cosa il PL. E deve evitare bene. No, capisci, te lo sto dicendo, vuol dire che così, se no mica non mi interessa, per quello che non li prendo quelli lunghi, perché per quel baracchino non vanno bene. Per gli altri invece sì, per gli altri baracchini vanno bene, solo per quello lì non va bene. E a me mi serve per quello, capito, se no mica te l'avrei detto, dammi una futti a puntiglia a fare che cose. Ho capito. Signori, io sono arrivato al mio parcheggio, ancora non ho cenato, niente, siamo qua da mia socia, la cena, c'è Puffa che sta male, se coincide, se no a domani. Già, se poi ci vediamo domani sera al solito posto, già lo sai, e la sigla sempre di più. Vabbè, ok. Come stavo dicendo, come sta la bambina? Non bene, non bene, c'ho la febbre a 38,5 e in più ho la tosse, cago la tosse col catarro e siamo andati a prendere un'amica ci ha prestato la macchinetta a Rosol, stanotte per fare Rosol. Vabbè, da. Allora non è questione di diritti, no, ma signore, è questione di influenza. Ma la febbriciatola che c'ha, il pediatra ha detto che può essere anche niente, perché c'ha la gengiva spaccata, quella di sopra, che le sta uscendo l'altro dentino, ha detto che potrebbe essere anche la febbriciatola che c'ha, potrebbe essere anche da quella. Comunque ce l'ha di altri giorni, è fastidiosa, sta sempre piangendo, è un casino. Chi è che invade mai quella vita? C'è il brivido. Che più si aggiunta questa tosse, proprio quella catarrosa che non riesci, cioè quando tu stai vicino che lei respira senti i gattini, capito? Siamo che c'è i gattini dentro, proprio c'è un bel catarro, era tutta notte sveglia, siamo tutta notte svegli noi, una nottata allucinante. Ma vabbè, c'è che pina esattamente. No, non lo so, no, sì, tanti pina in goccia ha preso per la febbre. In più adesso deve prendere una pastiglietta sempre in compresa, gli ha dato stasera, in più abbiamo preso le boccettine delle aerosole da fare. Però la mette ancora te in giro, mamma mia, ma si vedi. No, anche in giro, siamo saliti dal pediatra, quando siamo usciti da lì, mi ci ha visto anche per Paolo, sono passato a fare una commissione. La bambina si è addormentata in macchina e l'abbiamo lasciata un attimino qua la mia suocera e noi siamo andati a prendere questa macchina di aerosolo e siamo arrivati adesso. E questo è quando è entrata, ho preso la bella perché si bisogna che malato si sta pagando. Va bene, già ripasserà pochi giorni adesso per il passo. Brava, speriamo in bella. Comunque lei è tranquilla, ti ho carina, però quando le viene questo attacco di tosse, pare che è morente. Va bene, dai signori, vi lascio che adesso seguo sul restaurante aspettando a me a cenare. Buonanotte, buon proseguimento, ci sentiamo di migliore, dai. Buon venti per me, ciao ciao. Ciao ciao Massimiliano, avanti. Sì, ciao Massimiliano, buon tutto. Mi sono spostato un attimino per poter mangiare il cane che era sino a due mesi e stava mangiando. E non andava, non curare i bisogni della volete, passando. Una mosca lunga alla gamba mia, al polpaccio. La goscia. Bello, ti devi andare a compagnia. I polpacci, diciamo di sì, ma è... Era un più male, capito? Nel senso che la mamma la patria di Guglio. E so sempre con mamma, la c'è qua. Con me. Non avrei più cani. Mica è la campagna, tanto quanto, vabbè. È diverso, anche se gli fai un coso suo, un posto che è caldo, ecco. Ma l'inverno. Ma ti va a casa, è dura veramente. Perché tu cosa c'è che problema c'è? Perché? Vabbè, il cane in casa non sono d'accordo, no. Lo passo qua e rimane. Per tante cose già. Cazzo cosa fuori, non mi fai bisogno, vabbè me li faccio il giornale, comunque sia, la pipì. Ma sempre pisciando, sempre. Ma dentro casa la fa. Sì, me la faccio il giornale, me la fa. No. Allora io avevo avuto il cane. Allora che dovevo andare io lo portavo in giro, sai quante amicizie ho fatto con i dintorni, con gente che aveva il cane. Ragazzi, come c'è un casino di gente, infatti a me mi andava bene, loro giocavano, il cane ne parlavamo, ci fumavamo una sigaretta, come c'è un casino di persone, anche ragazzi. a quello là che lo portavo giù e la facevo giù, no, non ne ha mai fatto a casa. Io lo so, è bene, ormai che fai conoscenza, ma comunque non mi fa, no, ma non che rimane ore fuori, allora sì, mi fa pure la pipì, la fa a colpi, tipo qua a casa la fa di continuo, no? Ma la gara c'è fuori a colpi, un punto più la puttana e fuggi, un altro punto e scappa, capito? E vabbè, vediamo che dica, dimmi finché si comporta bene, nel senso che lo faccio ad anni, adesso no, sono già quasi 2 anni, faccio a 2, non è maschio, dimmila, pagata. Esattamente 16 anni. Ma 16 anni normali o 16 anni? 16 anni normali. Cavolo. Praticamente come se avessi 89 anni. E cazzo. Comunque c'è proprio la villa, sì. Sì, gioca, fa. Non disturba mai. Sì, viene, se vuole essere accarezzata, perché tu sei seduto nella sedia, ti sale su con le zampe, ti tocca. Quando la carezza fa fa le fusa. Poi se dentro le dita nell'orecchio impazzisce. E gaffa, gaffa. Chi c'è qua? Oltre a te, Natalino, a tua madre. Non lo so, avanti se ci sei, niente. Quanto pari ogni anno hanno pure saranno stanchi. Vabbè, di culo sono fatto un poveraccio. Cava. Chi li capisce meglio di me? Ma era loro, sono in due, io sono per la sola. Puoi andare già, forse. E sempre, si deve per esempio il travaglio. Infatti io lo sto dicendo a lui. Che medaglia non ne l'hanno lì. Cazzo. Io ti sa, mi sa che mi fa vivere. Tu proprio sul pensiero a un altro caso di entrato. Oh, manca paragone. Certo. Tu fammi tradunare la via. Certo. Sempre mi devi dare una mano e cose. E lì, quando mi ricarica giù la roba, antigamente non toccherebbe neanche a me a scaricarla. Io la faccio portare fretta. O sai che mi chiami il giovane, tra rapito qualcuno. E ora me la scarico io la macchina, faccio in fretta, conservo tutti i figli. E dopo devo fare le altre cose, capito? E praticamente non spetterebbe a me, spetterebbe a loro a scaricarla la macchina. Se dovessi fare le cose che non mi spettavano fare niente. Io sono sotto come autista, carico, facevo personale in fiducia, pulisco macchinari, facevo manutentore, insomma, non vedo il travaglio che non fu tecnico. Stavo tutto un po' di baravi, sì. Cazzo, ma il tuo guglione non si è attribuito a pulire la macchina, cazzo, e la donata bloccata, vivi tu. Ti spiegherò, si stava parlando del fatto che lui ha detto che devo pulire io, però se io non posso ci deve essere l'altro pronto a farlo, capito? E mi ha capito. L'hai sentito Gianni? Che non me lo si chiedeva, infatti. Adesso non ho ancora mi ha bloccato una macchina, ma io ci vorrei telefonato bu. Avanti, doppio rumpo, Gianni, Capri 2, scappa. Beh, la buona anima di Capri 2, avanti con la buona sera. La sera? Ah, quelli che ti avevano fatto portare in garage. Thank you. tranquillo, le cose pronte per piazzare il tutto. Thank you. la picciata, ma non mangio proprio bene la conserva. E se no, c'è la conserva. Frutta ripresa a zero, detto, poche vecchia. Ma non è voglia, se non già mi sarebbe piaciuto il vespino. Thank you. che si lamenta. Thank you. riuscita a bloccare l'occhiata blu, si è toccato prendere un angolo per me. Semplice, tutto come antenna. So, secondo me va bene. La tua natalità di capire che c'ha 20 anni. E già 20 anni si sa che è già arrivita. Adesso mettiamo a 5, ricambio il carro anche. Tutto di nuovo metto palo, antenna e carro. Ci aggiungo la multibanda che mi ho comprato a quel palo. Che quella è una bella, dovrebbe essere quell'antenna disco che ho comprato. Quella tutta in acciaio, quella bella che va anche in trasmissione, ha preso. E quindi faccio un bel lavoro questa volta. C'è un disco che hai comprato? E quella tutta in acciaio, quella che va anche in trasmissione, oltre che in ricezione. Quella che c'ha un bel quadrato, mi ho preso. Già va bene. La metti attaccata lì alla mantova adesso, dove c'è attaccata lì alla penultima altezza, dai, perché esca un po' fuori, altrimenti non rende nulla. Sì, gli arrende che esce fuori, in certo modo è sicuro, quindi sul mare da giù l'atto, quindi è l'abitudine che è lungo. Sì, sì, ma la devi far uscire un po' fuori per la metti. Dovrebbe andare bene, dai. E te credo, dovrebbe andare bene, sì. A me mi interessa più che altro la mantova, ha detto che esca molto fuori. E poi sentiamo le matracche. Sì, vabbè. Andare più forte. Solo perché è nuova dovrebbe uccidere, dovrei guadagnare qualcosa solo perché è nuova. Poi la metto più in alto, figurati un po', dovrebbe essere una figata, mi lavoro. Siamo a volere Nathalie. Ehi, adesso chi se ne prende se ne prende, poi non ne prendi chi se ne. Già cominciano a scarseggiare, l'unica che ho provata a Salerno l'ho provata questa qui. A chi manda qua 5 tecnocomunicazioni ha messo fuori produzione. C'ha solo la turbo, neanche la 1. Poi c'è qua Sassari, le compra, le compra. Ma non sai quanto la vuole a Sassari, 139 euro la vuole la mantova. Sì, vabbè. Ma che si gira se la leata? Sono 20 euro in più. Sì, ma quella è la Labrie. Già me l'ha fatta pagare molto quello di Salerno a me. Che mi è venuta con l'assicurazione e tutto, mi è venuta 125. Capito, perché non l'ha mandata assicurata. È la pittina. È già troppo quello, perché con tecnocomunicazione mi sembra che l'avrei pagata 110. Capito? Invece l'ho pagata 15 euro in più, 16 euro in più, guarda. Ma non me ne frega, l'importante sia qui. E a quel punto ti conveniva prenderla qua, la biglia e luce, per pochi, così in più. E ma qui erano tutte ristrettore queste di grassimi, capito? Questa qui è entrata legale, tranquilla, è già piazzata, tipo di, lo stilo, il pezzo dello stilo finale devo mettere, boh, che è piazzata, ma ora devo solo infilare e basta, ed è pronta, devo vulcanizzarlo, quel pezzo lì, e perché se no era troppo lunga, perché non è troppo in antenna, capito là? Adesso quella mi sa già del retano, quando la vede qui dentro. Se si è preso la 1, una persona, l'ha presa qua a Sassari, va benissimo, alla prima. Infortunato è stato, Roberto l'ha trovata difettosa per esempio, poveraccio. A presente l'ha trovata difettosa lo stesso, che non riuscivano a entrare il pezzo dove c'era la resina. Capito? Erano tutte difettose. Salvini per esempio ci aveva la l'induttanza attaccata. E ne ha avuta pure la parami. Allora lo vuol dire. Cioè, ragazzo. Oh. Ma più là Mantova non è compro io, compro un'altra antenna. Un'altra antenna un po' più. Se va più forte. E ce ne sono antenne che vanno bene, c'è una stella per esempio che è una municipio antenna. C'è solo il difetto che si stacca la carica perché il rame è un bel grosso. Ma io già so come ripararlo, ne ho già riparato una di quelle così. E poi vabbè, ne avevo un'altra, Sirio, tipo la Stella, che c'era i radialini piccolini piccolini in fibra di vetro, azzurri erano. Era bella anche quella, l'ho regalata quella lì. Non è che, attenzione, quindi non me ne fregherebbe di comprare. Ma dove me la comprare? Io dico una superlente, sono un signore. E vado alla grande. E la Lemmy lo stesso esce bene, perché ce l'aveva un amico Sandro, ce l'aveva la Lemmy normale, quella con quattro radiali. Quella più lunga della Mantova. Cazzo, ci va una bella quello lì lo stesso. Superlente quella. Quella quattro radiali ci aveva Sandro. C'era quattro radiali in alluminio, ci aveva. Cazzo, era una bella con l'antenna stessa. Quattro radiali riportati sono. Già la conosco, non ti preoccupare. Ho visto le caratteristiche, ma sinceramente, guarda, montando un'antenna così, io monterei quella lì, monterei. E sono sicuro che è in mano un forte. Ah, poi, ma quanto è andato pure un arrinco lì, andava alla grande, lasciamo perdere. E guarda, io ti dico una cosa, quello che conta da voi è la sostanza, e l'antenna è fino a un certo punto. No, no, l'antenna è tutto, se non hai antenna tu puoi avere la radio che ti pare piace, ma se non hai antenna è come che non hai nulla, capito Lion tu? Gianni, ci sei ancora a Capri 2? Allora te ne dico una, te ne dico. Tu quando hai un'antenna d'attento che abbia delle caratteristiche buone, poi a farla rendere, io ti dimostro a te che a farla rendere poi ci si penso io. Non ti preoccupare. Dicendo Antonio, se non hai antenna è come che non hai il baracchino. Quello è il baracchino migliore del mondo, se non hai antenna non trova idu, compreso Antonio. Gli americani lo sai cosa dicono, ah, $1 per l'apparato e $1000 per l'antenna. Scusa un attimo Marcelli, ti stavo dicendo, quando tu metti un'antenna a testa che ha le caratteristiche buone, poi che non sia neanche molto grande, anche una via di mezzo, avrei che se lo posso vedere io avrei come interrende un'antenna, perché è quello lì che non hai capito tu, quello che ti voglio dire io. Io ce l'ho capito, solo che non rende mai quanto. Se tu metti un arringo, per esempio, non può mai rendere come l'antenna che ho io, in lontananza, capito? Per esempio, perché potrei mettere un lineare per imbattere di più, se no manco baricatori. Poi con la recessione non ne parliamo, con la recessione non puoi fare niente, a meno che non ci metti qualche amplificatore d'antenna per ricevere, però dopo te ne entra tutta la mondezza, capitale del discorso. L'antenna vuole silenziosa, vuole, perché in lontananza. state presenti nel più piccolo segnale. I radioamatori perché usano le direttive, per quel motivo lì, perché sono silenziose e sentono i segnalini, perché se tu non senti non puoi neanche parlare, capito Lanto, ecco cosa ti voglio dire. Cambia pochissimo, una ne ha 6, una ne ha 7,5, a rate rosa chi cambia là. Allora ma mettiamola dai, e ti dimostro a te chi sono capori da di chi la Montenotte. Te lo dimostro quando vuoi, non ti preoccupare, va, lasciamo perdere che è meglio. Va, no comment, con te è come parlare col nulla in tu. Tu hai le tue convinzioni, vabbè, tu un giorno le appiazzi, mi dimostri che tu ricevi meglio di me. Capito? E che te le metti meglio di me. Un giorno le appiazzi. E così vediamo chi ha ragione. Poi la parte dei 7 di vita la Mantova 5 è una tronzata. Quelli che mettono sono roba esagerata, come fa a guadagnare 7 dB quando devi per un dB solo a raddoppiare la potenza? Non dicono stronzate, il dB lo sai quanto guadagna? 0 dB. Capito? Quindi se la Mantova 5 ha 3 dB e mezzo, è anche troppo. Capito? Non dicono 7 di 1000, 8 di 1000, 9 di 1000 a livello di direttiva, non mi fai qua siamo lì tu, che sono cose che abbiamo già visto. Riprendi Gianni Bravo 2, rimini Gianni Bravo 2, Gianni Capri 2. Sì, guarda che lo so benissimo, se guardi nelle schede tecniche sono rapidissime, a me va, è un gioco che si firma di me, ma queste cose da giovite però, fai riprendere a Capri 2, dai. per loro mettono di via astronomici che non è possibile, perché cazzo, solo per un dubbio che si raggiunge la potenza, non è così Gianni. Thank you. so cosa vendono. Addirittura questo Vitello l'ho fatto io, è lungo e fitta. E ti sto dicendo che come arrivavo l'amante mi arrivavo il Vitello, lo stesso guadagno aveva. Dimmi tu, adesso. Riceve uguale quanto quella là, con i dB che ha di guadagno. sono d'accordo con te comunque. Ci sono varie cose che bisogna sapere delle antenne, vabbè, lasciamo per. Ok, avanti Capri 2. Lasciamo per brutto Natalì, sento un restaurato ultimamente questi K, però parecchio professionale, ma voi manco buscavi di mandare la M, sono stata messa la M, sono parecchi toccati, cazzo, per mettere la M, però sono professionale, lasciamo perdere, dai. Io cazzo facciamo la brava, diciamo le cose come stanno. Sono parecchi anche quelli toccati, boh, stop. Però tutti i cazzi dicono che sono professionale. Ma chi lo dice che sono professionali? Ma chi nei professionali non vi ne è noghi? Neanche quelli radioamatoriali sono professionali. Professionali ci può essere Rode Schwartz, però quanto costa? Chi è che se lo può permettere un apparecchio del genere? Capito? Io già lo so queste cose, ma la gente ignorante non le sa. E allora io non sento altro di tutto il giorno. Questi sono apparecchi professionali, sono stati anche quelli perché non sono neanche costruiti per andare nella M, eppure tutti dicono che lo stesso cazzo è un demonio questa radio e cose, non vuoi toccare come dai altri, cioè addirittura manco verrà la M, per un po' nel caso per andare nella M, ho scoperto anche come fanno a fare i salti di frequenza per andare nella M, chi li ha fatti, figurati, e poi verrà a dire a fare anche professionali, così siamo con gli antenni, antenni loghi, antenni chissà. Thank you. semi professionali quelli, capito? Ma come professionale da sé, ma non te la potresti permettere, capito? Santiago 8, 5 stava arrivando col Vittorio Pierpa. Ti sto dicendo che io sto arrivando così perché sto trasmettendo male. Quando sono in gruppata, allora è l'antenna nuova, ragioniamo. Io sono contento per Mulos, hai capito? Io era quello che stavo facendo gli esperimenti. Ma tu lo sai a come è posto il mio riporo? È un'altezza di 8 metri. È un'altezza di 8 metri, Natalie. E se ti voglio far capire quello, se io questo riporo lo prendo e lo metto sul tetto, all'altezza del palazzo di 25 metri, dovrebbe arrivare di più o no? Va bene, più libero arriva. È la stessa storia dell'antenna mia. Io sono coperto in tre parti qua. Sono coperto dietro, tutti e due i fianchi, per lungo, sono coperto. Infatti arrivo bene Alghero, Porto Torres, lì arrivo bene. Però nei fianchi e dietro sono coperto per il momento. Ecco perché io sto mettendo un palo più alto e l'antenna nuova, perché questa antenna sta funzionando anche male. Sì, certamente, che l'antenna se la alzi più alti e più funziona bene a tutta la sua linea, giusto? E quello che infatti ti stavo dicendo di questa cosa, sì, io quel dipolo anche, il dipolo solamente lo alzassi alla quota giusta, libero gambe, gambe lati, perché tu sai adesso che è in facciata, poi anche la ricezione si sa. sacchi, più autonomi, più libertà trova l'antenna, più libera è e più ha tutti i suoi tipi di guadagno e più ha anche in uscita, certamente, in caso una cosa che poi ha a 10 metri non la puoi fare con una che poi ha 30 metri, no? Se tu avessi un traiccio di 30 metri, se lo pone a 30 metri all'altezza non è la stessa cosa, no? Ma quello cambiano tutte le antenne, però, tutte le antenne che tu questo, un'antenna che è messa a bassa, ma un'antenna che tu ce la sai su un traliccio a 30 metri, cambiano tutte, cambiano. Un'altezza di 10 metri riceve per quello che riceve dalle coperture che c'ha, ma messa a una certa altezza cambia per forza, guai se non sarebbe così. Un'antenna che è messa, un dipolo che è messo diciamo a raso terra, a 10 metri da terra, con una facciata che lo copre, e se tu invece ce lo metti su un tetto, su un palazzo che è di 5 piani per dire no, e tutta la potenza è 30 metri, ce lo credo che ciamba, cazzo, ma ciamba dalla lì a Rotti. Ma io sono rimasto al mazzo con il dipolo, tu ricordi che c'era messo ciò da quel frammartello, il dipolo? Cazzo, e io ci vedo più di una mano per sentire i vivi. Cazzo, se io lo metto adesso quel dipolo lì, che ce l'ho in terra, sotto la mantella nuova che metto, me lo voglio adesso quel dipolo, va. Se non avete una ragionata, per fa. Certo, io adesso ti ho fatto vedere, no, il dipolo, a muro se arriva, hai visto, arriva a Santiago 5, se io lo stesso dipolo lo salgo su in alto, e ciamba, vedevi ciamba, poi forse guai se non lo sarebbe, perché posto a una certa altezza, e grazie al discorso cambia, innanzitutto ha più lati di vegetazione, più lati di trasmissione, ne va più dappertutto. E cazzo, però vedi, arriva lo stesso, anche Santiago 5 arriva lo stesso, però non è la stessa cosa, più razzi, si occhi, vedi, buscia, che ne so, compagnia, con la possibilità di poi tirare 50 metri, e cazzo, un discorso già, ma qualcosa, si accorcia, sai che si accorcia anche la distanza tra le antenne che si incontrano, più altro metri. A me per forza, cazzo. È ovvio. Ecco perché ti sto dicendo che quando io metto quelli colori se ne avremmo ragionato. Perché io mi vado quanto era avanti a vedere al basso il dipolo. Figurati se lo metto a 12 metri d'altezza quel dipolo. Cosa succede? Ma lo stesso discorso anche per stare parlando di direttive. La direttiva se non è a una certa altezza ed è libero un po' da tutto. Questo è tanto dettaglio di un cazzo. Ma cosa, cazzo, che dire un fuso? discorsi assurdi per Paolo, te lo tentano anche cazzare, perché non andare così. Io mi accorgo che ho poca ricezione. Ed è per quello che lo sto sapendo di più, in modo che la rendo più libera là. La rendo. A sentire alla casa che va, è troppo bassa. Poi ce l'hai vista tu in che condizioni sono io per fa. Anche se io sono in alto, c'è un influsso. Ma io non per esempio, io mi accorgo anche quando sto viaggiando, io faccio sempre, molto spesso faccio carbonarsi e sono in via Milano Alta e non me ne accorgo sapendo che più salgo e più la ricezione ce l'ho al doppio e me ne accorgo sì, anche che sono su motocarro, però me ne accorgo che la ricezione sale e le sbocche di più. Cazzo, ma è una questione logica che se non te ne la sali, è logico che funziona più bene. E se tu da lì adesso gli metti questo palo e riesci a uscire anche solamente di 2 metri dalla posizione quale sia attualmente, cazzo, io credo che ci abbia tutto, sia in trasmissione che in ricezione. A me non interessa la ricezione. Vabbè che adesso l'antenna renderà quello che rende perché è nuova, ma per dire, a me mi interessa la ricezione, perché io un DS mi viene male, perché ricevo male, ricevo troppo basso, capito là? Perché secondo voi uno che trasmette a me, io lo ricevo male, perché sono in fosso tra confronto a lui. Infatti il segnale che erano arrivo basso, non arrivo come dovrei arrivare. Se libero l'antenna vediamo che le cose cambiano. Che di brutto. Per forza deve cambiare. Cioè per forza, se una cosa che trasmette, un'antenna che trasmette da una certa altezza, che incontra sicuramente più ostacoli, da un'antenna che liberi, perché ti ricordo che magari ci sono antenne che basterebbe soltanto sollevare 2 metri, superi un ostacolo già e stai arrivando diversamente. Non si può paragonare un'antenna messa a 3 metri d'altezza se la metti a 10 metri, che il discorso già va tutto. Quella è una questione di logica. Se ne è accorto anche il Gianni Capriore che ha cambiato dal giorno alla notte, Antonio. No, cambia, allora buonanotte. Infatti deve cambiare per forza. Anche Giuseppe era troppo bassa quella di Giuseppe, io gli ho detto mica troppo bassa chi si alterna. Infatti a mio ragione, se mi sono bisogno di chiamare la zona per vendere, ha cambiato tantissimo. Io sono difficile in ricezione, non ho mai negato che sono difficile in ricezione, sono difficile. E a me mi arrivava a Santiago 5 come l'ha messa prima, adesso mi arrivano le 10. Quindi il cambiamento c'è, che sono soltanto, cosa ha cambiato i 3 metri, però vedi che ci sono molti, sono molti minimi di differenza che sono, sembrano così ma sono molti. Chi la libera da lo sacco, la libera da lo sacco la lanterna con quei 3 metri, è logico che ha cambiato parecchio. Certamente, infatti se c'erano, se non fosse così guai, prima la base per Mike Gianni, buon tutto, buonanotte, alle prossime, va, segnati il segnale con le tue amiche che dopo quando metto l'antenna nuova faremo il paragone. Avanti per tanto di saluti a Capri 2 che sta chiudendo K. Ciao Capri 2, buona giornata per domani, buon tutto, ce la risolviamo nei prossimi dai. Parte mia, Capri 2. E ci sentiamo domani magari, quindi può venire per certi minuti, non riescono a prendere sotto voi. Grazie di buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao, buonanotte. Natali. Via. A me per esempio una sera è successo una cosa al suo quadrato. Cosa è successo? Questo qua, e c'avevo quel Maxo, c'avevo in pratica, cazzo. poco come è sicuro. Funzionano così.